pats, isopats. E vuoi essere chi vuoi uscire fuori da casa mia. Isopats, isopats. C'ho il popolo che mi aspetta e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare perché sono pazzo. Io sono pazzo. E oggi voglio parlare. Iso pazz, si sento sta nervatura, metta tutto in faccio mio. Iso pazz, iso pazz. E chi dice che Masaniello poi dico non sia più bello. E non sono meno malo, sono pure diplomato. E la faccia nera l'ho dipinta per essere notato. Masaniello è cresciuto e Masaniello è tornato. Iso pazz. Io sono pazzo, un cisca sa tu cazzo.